compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Sicilia con Giacomo Pilati. Oggi siamo in Sicilia, isola plurale, come la definì Gesualdo Bufalino. E con noi c'è un siciliano doc, Giacomo Pilati. Il mare per chi abita in Sicilia e per chi scrive di Sicilia è una costante fondamentale. Io vivo in una città che si chiama Trapani, che ha la fortuna ma anche la sventura di essere protesa verso due mari. Da una parte abbiamo il Mar Mediterraneo e dall'altra parte il Mar Tirreno. Una città di frontiera che rispetto alle altre frontiere presenta appunto due continenti completamente diversi che si affacciano sulle sue pietre. Da una parte l'Occidente progredito, rappresentato dal Mar Tirreno, e dall'altra parte il mondo per un certo verso ancora da esplorare, che è quello dell'Africa, da esplorare per noi occidentali, ovviamente. Trapani è posizionata nella parte occidentale della Sicilia e si trova sullo stesso promontorio dell'antica Drepanon, termine greco che significa falce, data la forma della penisola su cui sorge la città. È denominata anche città tra due mari, in quanto si protende su una lingua di terra circondata dal mare. Trapani è l'inizio ma anche la fine, e si può dire dell'Europa, a secondo da dove si guarda. Qualcuno dice che ancora è Nord Africa, alcuni parlano di Europa meridionale. Certo è che il mare è una costante straordinaria, perché è un mare che divide ma che anche unisce. Nella storia dal mare sono arrivati gli aggressori, sono arrivati i pirati, sono arrivati i saraceni, ma sono arrivati anche gli amici. Sono partiti i siciliani che sono andati in America a cercare altre fortune, a cercare un altro mondo, un altro modo di vivere, un altro stile di vita, a cercare lo sviluppo, il progresso, possibilmente il futuro. Ma dal mare sono arrivati i pescherecci colmi di pesce, nel passato i pescherecci pieni e colmi di spugne, che hanno dato benessere ai nostri pescatori e alla nostra gente. Quindi il Trapani diventa una sorta di avamposto, una sorta di avanguardia per quanto riguarda tutte le novità, ma anche per quanto riguarda il mondo conosciuto e sconosciuto. Tutto questo mare, nelle parole di Giacomo, non è che l'impronta indelebile della sua sicilianità. Nascere e vivere in un'isola, e soprattutto a Trapani, la città detta dei due mari, ti fa fare i conti con la distesa d'acqua che costantemente ti riempie gli occhi e le narici. È un mare che ispira tante cose, ispira amori, ispira sensazioni, ispira emozioni. È un mare che non è mai lo stesso, è un mare che cambia nel corso della giornata diversi modi di reagire anche nei confronti dei venti che lo assediano. Noi abbiamo lo scirocco, che è un vento prepotente, che è un vento che addormenta ma che anche risveglia, e lo scirocco si vede prima dal mare. Da una parte, dalla parte del Mediterraneo, quando soffia lo scirocco, il mare è agitato, mentre a tramontana è calmo. Invece quando c'è la tramontana, un altro vento appunto che assedia e che opprime questo lembo di Sicilia, appunto è viceversa. Nella zona del Mediterraneo è calmo e dall'altra parte invece è agitato. Quindi un mare umorale che spesso condiziona e riflette non solo la scrittura, ma anche gli umori di chi ci vive. Sicilia bella, Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, Sicilia bella, ma manca sai correre in davanella. L'occhio di miria ci hanno sempre a mangiare, qua al lato terra volo sanno sugare. Gli alliscia che le case fanno ragione, caso pretempo fanno case e casone. Sicilia bella, Sicilia bella, preda del fuoco io ne so farella. La Sicilia di Giacomo per ora è Trapani, protesa tra Mediterraneo e Tirreno, con le sue contraddizioni e il suo fascino. Veniamo adesso ai trapanesi. I trapanesi è gente ospitale, perché abituata ad accogliere, abituata ad avere confidenza con quelli che sono gli stranieri, che una volta si chiamavano i continentali, ma ancor prima i forestieri. I trapanesi hanno le braccia aperte, appunto come questo mare che, come dicevo, unisce e divide. Qui l'ospitalità veramente fa parte del DNA dei trapanesi. Qui non troverete mai usci chiusi, troverete spesso le porte aperte, troverete ancora le persone che davanti all'uscio magari salutano i passanti che non conoscono. Ecco perché la vocazione turistica di questa città ha dei contorni ben definiti. Negli ultimi anni, per fortuna, si è potuta ancora esprimere meglio. Molti hanno aperto le loro abitazioni a bed and breakfast o a pensioncine che danno un'accoglienza straordinaria. Ascolto Giacomo e mi faccio inebriare dal suo modo di raccontare, così pieno d'entusiasmo per la sua terra, con quell'enfasi giustificata da tanto spettacolo geografico, storico ed emotivo. E la città va scoperta lentamente, c'è un cuore da mordere, un cuore barocco che va morso piano e a piccoli morsi. Si può fare un giro per vengole spagnole, corsi bordeggiati da palazzi che sono veramente sontuosi e chiese di straordinaria bellezza. Perché dietro il mare di cui ho parlato c'è davvero un paradiso di pietra che è proprio lì, appena girato l'angolo. E Trapani è nascosta dalla cortina delle case povere dei marinai che da secoli sono la sua anima vera. Ed è veramente una meraviglia scandita da sequenze infinite di dimore appartenenti a principi, a baroni, ma anche alle case povere dei pescatori, e convivono tutti in un fazzoletto di pietra che è veramente entusiasmante per chi si colloca al centro di questi triangoli che si compongono come una sorta di puzzle che partono dal mare e che poi sventolano fino ai piedi della montagna di Erice, una montagna di 751 metri che dall'alto abbraccia questa terra che lambisce il mare, punteggiata da questi mascheroni barocchi, ma anche da scene seicentesche assolutamente inedite. Per godermi questa contraddizione di sontuosità barocca e semplicità da pescatore, chiedo a Giacomo di farmi sentire della musica. La sua proposta è una canzone che fa parte della colonna sonora che ha fatto da sfondo alla scrittura del suo libro Sulla punta del mare. La cantante, ovviamente, è una siciliana. Già Natale, il tempo vola, l'incalzare di un treno in corsa sui vetri e lampadari accesi nelle stanze dei ricordi. Ho indossato una faccia nuova su un vestito da cerimonia ed ho sepolto il desiderio intrepido di averti a fianco. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Sicilia con Giacomo Pilati. Giacomo Pilati ci sta facendo fare un giro in Sicilia. Siamo a Trapani, la sua città. Ci ha già fatto capire quanto il mare, nella città cosiddetta dei due mari, sia fondamentale. Anzi, quanto lo sia per la Sicilia tutta, sia per chi ci vive, che per chi ne scrive come lui. Ma proseguiamo con la visita. E due sono le arterie principali del centro storico di Trapani: una è la via Torre Arsa e l'altra è il corso Vittorio Emanuele. E guarda caso, queste due arterie precipitano entrambi al mare, perché è questa la costante: questo azzurro, questo profumo di sale, questo profumo di pesce secco che si avverte, che è rimasto incollato alle spalle dei muri della città, che è rimasto incollato nei muri della cattedrale, nei muri della chiesa del Purgatorio, che custodisce il vanto di questa città, che sono appunto le bare della processione dei misteri che vengono portate in spalla dai portatori il Venerdì Santo, e vengono custodite in questa chiesa del Purgatorio, che è opera dell'architetto pratico, come viene definito, Giovanni Biagio Amico, ed è appunto con le statue degli apostoli che ricamano in alto i contorni. E questa chiesa appunto custodisce gelosamente questi 20 gruppi dei misteri. Il profumo di mare incollato ai muri delle case e persino della cattedrale. Le immagini di Giacomo sono sempre più affascinanti. Ma il centro storico di Trapani non è solo barocco e mare. Ci sono per esempio i bei portali a sega e a pentaglio, che mostrano la smania della classe media del Seicento di aderire in fretta alle nuove tendenze architettoniche. E poi fino a giù, fino a lambire il mare, appunto le case dei pescatori, modeste, umili, che fanno quasi da contraltare al barocco sfarzoso e carnale che c'è alle spalle, come se queste casette preparassero all'approccio più modesto e più umile con questo mare meraviglioso che abbraccia questa terra. Anche se tutto mi sembra davvero imperdibile, chiedo a Giacomo di darmi qualche indicazione su dove davvero non si può non andare. Due sono le cose imperdibili di Trapani. Uno, fare una passeggiata lungo le mura di Tramontana, che sono state riaperte da alcuni anni. Meglio se al tramonto. A destra si avrà l'occasione appunto di ammirare in tutta la sua materna bellezza la montagna di Erice. A sinistra invece c'è evidente la punta a falce con cui si conclude o con cui inizia la città di Trapani, ed è bello vedere come le luci soffuse e sensuali del tramonto si incarnano nelle pietre della città di Trapani, che attraverso questa lunga striscia, attraverso questa lunga passeggiata punteggiata dalle case dei pescatori, appunto danno veramente il senso della falce, dell'antica Drepanum, ed è veramente straordinario vedere come la luce del tramonto, questo arancio, si miscela con il tufo delle case antiche dei pescatori. La seconda cosa imperdibile è quella di mangiare il couscous a Trapani, in una qualsiasi delle trattorie lungo il porto oppure nel centro storico. Il couscous di pesce è veramente l'anima di questa città. Il couscous che rimanda alle dominazioni arabe, e il pesce che riconduce tutto all'attività principe nella storia e anche nell'attualità della città, appunto la pesca. E mi vai a riposare a stissaria caso potenza sciogli mo pinzeri au cori vola s'allumera pigli forma e ti presenti. E siamo arrivati a parlare di cibo, il couscous, che ricorda le dominazioni arabe, come ci ha appena raccontato Giacomo Pilati, è l'occasione per introdurre una nuova meta siciliana. La vera capitale del couscous, capitale non solo provinciale ma italiana e perché no anche mondiale, è San Vito Lo Capo, che in questi ultimi anni, diciamo in questi ultimi 15-16 anni, è diventata davvero la regina del couscous, questo piatto eccezionale che unisce i popoli di tutta la terra. San Vito Lo Capo è davvero ad un passo da Trapani, 40 chilometri che si fanno lungo il mare, appunto, che da San Giuliano, dalla spiaggia dei Trapanesi, attraversa Pizzolungo, Bonaggia, e poi arriva fino a San Vito Lo Capo, affacciandosi su scenari veramente bellissimi, da brividi. Ci sono certi momenti in cui sembra la savana, in altri momenti sembra veramente il Mediterraneo più estremo, con tutti i suoi colori più accesi, fino ad arrivare appunto a San Vito Lo Capo, che sembra un'isola che galleggia fra Trapani e Castellammare del Golfo, in un saliscendi di emozioni che veramente approdano su litorali che sembrano disegnati dalla mano di un bambino. San Vito Lo Capo è uno dei più famosi luoghi di soggiorno estivo della Sicilia per la bellezza della sua spiaggia, che nel 2011 è stata eletta la migliore spiaggia italiana e l'ottava in Europa. E il couscous è ormai parte integrante di questo paesaggio. Si celebra questa festa nell'ultima settimana di settembre e vi partecipano tutti i paesi del Mediterraneo, che sono uniti da questo piatto caratteristico. E non si può non mangiare il couscous a San Vito Lo Capo, e magari lungo la spiaggia di San Vito, che è brunita dal riverbero del sole, che taglia in due la scena, perché da un lato appunto c'è il borgo con le case basse dei pescatori ancora le case basse dei pescatori, gli alberchetti, le passeggiate, le trattorie, e dall'altra parte invece c'è il faro, le torri di avvistamento del 600, le montagne che precipitano giù e dal cielo in ombre veramente che sembra che facciano delle acrobazie. Le meraviglie del paesaggio fatte di mare, rocce e luce sono eventi che durano tutto l'anno a San Vito Lo Capo, e a questi si accompagnano appuntamenti culturali e gastronomici come il Festival del Couscous, che si tiene ogni anno a settembre. Quest'anno non mancheremo. Un posto ci sarà per questa solitudine, perché mi sento così inutile davanti alla realtà. Un posto ci sarà fatto di lava e sale, dove la gente sa. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Sicilia con Giacomo Pilati. Sicilia scritta tra le pagine dei libri di Giacomo Pilati e Sicilia scritta nell'anima. Il suo mare imprescindibile, la sua gente ospitale e la sua storia millenaria ci stanno accompagnando nel viaggio di oggi. Abbiamo visitato Trapani e siamo da poco arrivati a San Vito Lo Capo, dove si tiene un fantastico Festival del Couscous, eredità della dominazione araba. Un luogo imperdibile per San Vito Lo Capo è per esempio la vecchia tonnara sul Golfo del Secco, che è al centro dell'antica terra di Cetaria, di cui parlavano i latini per indicare i tonni. E c'è lì un esempio straordinario di archeologia industriale, con i manufatti che fino al 1969 videro le gesta eroiche di Ciurma e di Rice, le prese con i grossi pesci pelagici del Mediterraneo. In questa tonnara si sono girati diversi film, appunto perché è un luogo veramente che evoca una Sicilia che non c'è più. E poi, seguendo questa linea di confine, si raggiunge un altro gioiello di questa costa, che è la riserva naturale dello Zingaro, in un crescendo di palpitante suggestione sulle tracce di una natura che davvero si trasforma metro dopo metro. È la prima riserva naturale della Sicilia, uno dei pochissimi tratti di costa non contaminati da strade litoranee. Ci credo che la suggestione sia palpitante, tanto per usare parole entusiasmanti di Giacomo Pilati. E la direzione a questo punto è scoperlo, ed è un filo di perle lungo quasi 7 chilometri che si percorre a piedi con lo sguardo diviso fra il mare e le montagne, che alcune sono alte quasi 1000 metri, che vengono assaltate dalla macchia del Mediterraneo. E lungo questo paradiso terrestre si può visitare per esempio la Grotta del Luzzo, che è uno dei primi insediamenti preistorici della Sicilia, il Museo della Civiltà Contadina, dove ci sono gli attrezzi degli antichi mestieri, poi ci sono una serie di tradizioni che la riserva dello Zingaro, che è gestita dalla forestale, intende recuperare, quindi ci sono delle aree di sosta in cui si può vedere la raccolta del grano, le tecniche di utilizzo delle fibre vegetali, e poi c'è questa vegetazione, questo assalto di macchia mediterranea che cambia di continuo, c'è il frassino da Marna, c'è l'erba di San Giovanni, ci sono le orchidee, i cavoli selvatici, il fiordaliso, lo zafferano. Con un po' di fortuna si possono fare anche degli incontri eccezionali come l'aquila del Bonelli, l'aquila reale, insomma. Poi se durante la stagione estiva ci si porta il costume, si può approfittare di un bagno unico in una di queste calette che veramente luccica fra le pietre bianche della riserva dello Zingaro. Dove giunida scamma cai carriteri, ogni tanto la sauno i loro bisogni e i musconi ci abbulauno sopra, e una caccia di lucettoli alituri nada ci commette in esa gigini c'una bocca a scuola sta finendo Dopo un bel bagno tra le pietre bianche della riserva dello Zingaro, siamo pronti per imbarcarci verso un paradiso che fino ad ora c'è stato proprio di fronte, là in mezzo al mare, le Egadi. Egadi. L'arcipelago consta di 3 isole principali e 4 minori ed è posto a circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, fra Marsala e Trapani, in provincia di Trapani. Le Egadi sono 3 perle disseminate nel Mediterraneo a 25 minuti di aliscafo da Trapani. Mi piace definirle dei pezzetti di Scozia volati in Sicilia, nel cuore del Mediterraneo. Le spiagge bianche, le nuvole rosa, le colline tinte di verde e il continuo inseguirsi di scenari, i giardini, boschi, voragini, montagne. È un altro veramente paradiso terrestre in mezzo a blu a poche migliaia da Trapani. E lì l'arrivo, la prima cosa che colpisce è il Palazzo Florio, un esempio di Liberty bellissimo, appartenuto alla famiglia che in realtà è stata la proprietaria dell'isola con le sue tonnare. I Florio, certo, industriali siciliani che dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento rappresentarono una delle maggiori potenze economiche anche all'interno del nostro paese. Possedevano infatti la più consistente flotta mercantile italiana, con la quale gestivano anche i servizi postali tra Sicilia e continente. Il loro palazzo, così come la statua di Ignazio Florio che troneggia in Piazza Europa, stanno ad indicare che furono proprio loro i signori dell'isola. Ma andiamo avanti e gustiamoci Favignana. Poi più là c'è la Camperia, che è l'antico deposito di barche e reti della Tonnara. Fino a una decina di anni fa ancora qui si calavano le reti che servivano per realizzare una delle più antiche mattanze del tonno di tutto il Mediterraneo, addirittura le origini sono fenicie. Oggi non si fa più la mattanza, però rimane questo manufatto di archeologia industriale, appunto, che è l'antico deposito di barche e delle reti. E poi se si fa una passeggiata lungo i sentieri che conducono verso la montagna si può raggiungere il castello normanno di Santa Caterina, che era un ex carcere ormai chiuso da decenni, ed è questo veramente l'itinerario giusto secondo me per cogliere in un solo colpo d'occhio la sua natura, perché ci sono i contorni frastagliati da cale segnate da azzurri diversi, le cave di tufo e la scogliera che si impenna all'improvviso, e poi le ciminiere dello stabilimento ittico dei Floro, che è un'archeologia industriale, anche questo allo stato puro. Pensate che da pochi anni è stato restituito alla Favignana e alla fruibilità ed è diventato un museo della Tonnara. E poi basta perdersi fra le venule che portano verso il mare o anche verso la campagna per sentire tutti gli odori del paesaggio: il timo, la camomilla, l'origano, il finocchio selvatico, la salvia, il rosmarino, la malva, il mirto. Questo accenno ai sapori di Favignana non può morire così, però. La Sicilia è anche buona cucina e non possiamo accontentarci di annusare alcuni dei suoi aromi. Giacomo mi assicura che tra poco si mangia. Sera gusano e canto, canto fare medano, canto licchia la rigotta, pesce sto che bacalaro e canto, canto a catanese e canto, canto a messinese e canto, canto a cincendano, canto licchia la rigotta, pesce sto che bacalaro e perciò mi piglio per rapporto e poi. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Sicilia con Giacomo Pilati. Ci siamo lasciati a Favignana e ai suoi profumi di finocchio selvatico, mirto, salvia, rosmarino. Il mio stomaco reclama dell'attenzione e non posso dar retta solo al cervello. Ma Giacomo, prima di concedermi un assaggio della cucina, vuole chiudere il suo giro. Lo seguo, con l'immaginazione sazia è più facile nutrire anche il corpo. E poi un'altra cosa eccezionale sono le cave di tufo, che sembrano dei cruciverba, sembrano dei grattacieli a testa in giù, sono per la maggior parte ormai dismesse, alcune sono diventate dei giardini dove crescono i capperi, i melograni, gli albicocchi, i nespoli, i fichi, i mandorli, sono veramente degli esempi, anche questi in un certo senso, di archeologia industriale, perché in alcune ci sono ancora dei pezzi di macchinari che servivano appunto per lavorare in loco il tufo, e con un po' di fortuna conoscendo le persone giuste si possono visitare alcune di queste cave ipogee che sono all'interno, e veramente la sensazione che si prova è davvero, davvero unica. Stiamo per prendere un aliscafo. E poi da Favignana con 20 minuti di aliscafo si può raggiungere Marettimo, e lì il paesaggio cambia ancora, perché è un'isola davvero dal cuore selvaggio. C'è una montagna che raggiunge e sfiora i 1000 metri, e lì è un susseguirsi di pianure rigogliose, pareti rocciose che si allungano in prospettive dolomitiche. E dopo Marettimo si ritorna a Favignana, e un po' prima di Favignana, e quindi è la prima isola che si incontra dopo prendendo l'aliscafo da Trapani, appunto Levanzo, e anche lì Levanzo vale la pena fare un salto per visitare la grotta del Genovese, dove all'interno ci sono rari e preziosi dipinti preistorici che raffigurano scene di caccia, idoli, cervi e cavalli. Dopo Marettimo, quasi una scheggia di Dolomiti caduta in mezzo al mare, e Levanzo, con i suoi reperti preistorici, si ritorna a Favignana per prendere finalmente posto a tavola. A Favignana un piatto ormai diventato tipico per i gourmet e per tutti gli intenditori sono le frascatole all'aragosta, col sugo di aragosta. È una sorta di couscous incocciato, cioè quindi con i grani un po' più grossi del couscous, che viene servito con un brodo di aragosta. Si può accompagnare con un bianco d'alcamo, ma si può servire anche con un prosecco e, perché no, per i più esigenti anche con uno champagne. E le frascatole con l'aragosta sono state, tra virgolette, riscoperte dalle sorelle Guccione, che fino a una decina d'anni fa avevano un ristorante a Favignana, che più che un ristorante era veramente un modo per comunicare agli altri tesori di quest'isola. Ahimè, ahi noi, purtroppo le sorelle Guccione hanno dismesso questo ristorante, però per fortuna ci sono degli epigoni, ci sono alcuni ristoratori che hanno ripreso questa vecchia ricetta. Fra mare giure nasce. Siamo alla ricerca degli epigoni delle sorelle Guccione per mangiare le vere frascatole con l'aragosta. Ma Giacomo, visto il mio interesse per il cibo, mi dà delle alternative qualora non si trovassero. Se si va a Favignana non si può fare a meno di mangiare per esempio il tonno, meglio se alla griglia, perché il tonno alla griglia veramente tira fuori tutti i sapori meravigliosi che contiene, oppure anche la pasta alle erbe con questi aromi, col timo, col finocchio selvatico, con la salvia, con il rosmarino, queste sono delle erbe che esaltano gli spaghetti, o ancora, ripeto, lo stufato di tonno con cui ci si può condire anche la pasta, oppure la frittura mista. E se si ha la fortuna di affittare una casetta, la mattina si va al porto e ci sono queste piccole barchette che vanno a Paranza, che già alle 7:30-8 portano appunto questo loro pescato, che appena è sufficiente per servire i 2-3 ristoranti dell'isola. O se si è fortunati, appunto, si può prendere questo pesce, portarlo a casa e farsi una frittura indimenticabile. Sono davvero sazia da ogni punto di vista. Giacomo mi vuole salutare ritornando al mare siciliano, quel mare di cui scrive. Questo mare siciliano, questo mare che lambisce le coste di Trapani, va raccontato per chi ha la voglia, e alla passione di raccontare e di raccontarsi diventa quasi un'esigenza fisiologica. Il mio ultimo libro infatti si chiama Sulla punta del mare, edito da Murcia, e racconta una storia che è strettamente e intimamente legata con questa terra, con questi azzurri che vengono offerti dal nostro mare così sempre mutevole. E io, che quel mare l'ho visto e vissuto attraverso le sue parole di siciliano, voglio ricambiare il saluto in qualità di italiana con le parole di Goethe. Grazie Giacomo. L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito. Soltanto qui è la chiave di tutto. Ora Giacomo Pilati è in libreria con Sulla punta del mare, edito da Murcia. La lava in fiamme scende la collina, mi lavo i piedi e domenica mattina. Il sole picchia in testa come un assassino, la piazza in festa, la festa del patrono. Il mare scuote il letto e un collare intorno al collo, satelliti nell'aria, caduti tutti intorno. E tra un rosario e un lutto cittadino, mi siedo e aspetto di parlare con qualcuno.